Capitolo 102esimo. Lapiti e Centauri. Taluni dicono che Pirito o il Lapita fosse figlio di Issione e di Dia, figlia di Ioneo. Altri che gli fosse figlio di Zeus, il quale, trasformatosi in stallone, caracollò attorno a Dia prima di sedurla. L'eco delle imprese quasi incredibili di Teseo giunse sino a Pirito, che regnava sui Magnesi, alla foce del fiume Peneo. Un giorno egli decise di mettere alla prova il valore dell'eroe, sottraendogli una mandria che stava pascolando nei pressi di Maratona. Quando Teseo si lanciò all'inseguimento, Pirituo arditamente si volse per tenergli testa, ma l'uno e l'altro rimasero così colpiti dal nobile aspetto dell'avversario che si scordarono della mandria contesa e si giurarono eterna amicizia. Pirito sposò Ippodamia o Didamia, figlia di Bute, o come altri dicono di Adrasto, e invitò tutti gli Olimpi alle nozze, salvo Ares ed Eris. Rammentava infatti quali guai avesse fatto nascere Eris alle nozze di Peleo e di Teti. Poiché i convitati erano più di quanti il palazzo potesse ospitarne, i centauri, cugini di Pirito, sedettero a tavola con Nestore, Ceneo e altri principi tessalici in una vasta grotta. I centauri tuttavia non erano avvezzi a bere vino, e quando ne fiutarono l'aroma, respinsero il latte acido che stava loro dinanzi e corsero, con i loro corni d'argento, ad attingere vino dagli otri. Nella loro ignoranza bevvero il vino schietto senza allungarlo con acqua, e si ubriacarono in tal modo che quando la sposa apparve sulla soglia della caverna per salutare gli ospiti, Eurito, o Eurizione, balzò dallo sgabello, rovesciò il tavolo e la trascinò via per i capelli. Subito gli altri centauri seguirono il suo vergognoso esempio, agguantando bramosi le donne e i fanciulli che capitavono loro a tiro. Pirito e il suo paraninfo Teseo accorsero in aiuto di Ippodamia, amputarono il naso e le orecchie di Eurizione e, con l'aiuto dei Lapiti, gettarono i centauri fuori della caverna. Si scatenò allora una lotta furibonda che costò la vita al Lapita Ceneo e si prolungò fino al cader della notte. Così ebbe origine l'antica inimicizia tra i centauri e i loro vicini Lapiti, voluta da Ares ed Eris, che si vendicarono per l'offesa loro fatta. In quell'occasione i centauri subirono un grave rovescio e Teseo li scacciò dal loro territorio di caccia sul monte Pelio, spingendoli nella terra degli Etici presso il monte Pindo. Ma non fu facile sottomettere i centauri, che avevano già contestato a Pirito la successione al trono di Issione e che, infine, riunendo le loro forze, invasero il territorio dei Lapiti. Essi colsero di sorpresa il grosso delle forze lapite e le decimarono, e quando i superstiti fuggirono a Folo in Elide, i vendicativi centauri li cacciarono anche di là e trasformarono Foloe in una loro roccaforte. I Lapiti si stabilirono poi a Malea. Fu durante questa campagna contro i centauri che Teseo incontrò di nuovo Eracle per la prima volta dopo la sua infanzia e lo iniziò ai misteri di Demetra a Eleusi. Sia i Lapiti sia i centauri si vantavano di discendere da Issione, un eroe della Quercia, e avevano in comune il culto del cavallo. Erano tribù primitive che abitavano sulle montagne della Grecia settentrionale e gli Elleni approfittarono della loro rivalità per allearsi prima con gli uni e poi con gli altri. Centaur e Lapit sono forse parole italiche, centuria pattuglia di 100 uomini e lapicide che aguzzano le selci. L'etimologia classica invece rispettivamente da centauroi, coloro che trafiggono i tori, e lapizein, vantarsi. Pare che questi montanari si dedicassero a orge erotiche, acquistando così la fama di lussuriosi tra i monogami elleni. Membri di tale razza neolitica sopravvissero sulle montagne arcadiche e sul monte Pindo fino all'epoca classica, e nella moderna Albania si trovano vestigia della loro lingua indoeuropea. È tuttavia improbabile che la leggenda della lotta tra Lapiti e Centauri, riprodotta sul frontone del Tempio di Zeus ad Olimpia, nel Tempio di Teseo ad Atene e sull'Egida di Atena, rispecchiasse soltanto una scaramuccia tra tribù diverse. Poiché tale lotta nacque durante una festa nuziale patrocinata dagli dei e alla quale partecipava Teseo con la sua pelle di leone, essa si ricollega senza dubbio a qualche rito che riguardava molto da vicino gli Elleni. Anche Eracle, dalla pelle di leone, combatté contro i centauri in una circostanza analoga. Omero chiama i centauri villose bestie selvagge, e poiché nella pittura vascolare greca arcaica essi non si differenziano dai satiri, l'immagine primitiva probabilmente raffigurava un re, non importa chi, appena incoronato, nell'atto di lottare con danzatori travestiti da animale. Hogarth, nel suo Kingship, ha dimostrato che tale lotta simbolica faceva parte della cerimonia dell'incoronazione. A Eurizione è affidata la parte del guastafeste. Sia Issione sia Zeus sono considerati padre di Pirito, perché Issione aveva il diritto di fregiarsi del nome di Zeus. Il mito di questa paternità è stato evidentemente tratto da una raffigurazione di una sacerdotessa di Teti, Dia, figlia di Ioneo, la divina figlia della spiaggia, con le redini in mano nell'atto di incoraggiare il candidato al regno a domare un cavallo selvaggio. Il nome di Ippodamia, domatrice di cavalli, si riferisce alla medesima scena. Zeus, trasformato in stallone, caracollava attorno a Dia, poiché tale è il significato del nome Pirito. E Sione, come dio del sole, inchiodato a braccia aperte alla ruota, correva attorno al cielo.